pense kaka zoka yoko chola kamo teme tomi na mawa na pense se yanga odi nelinga mope kaka ina na miso na bati kovituna esko zali wanga imote madi uwe mikolo miko mimi kusese batoto meka osala wanga mote mape mama soya no piko mabanda eloko bolingo nende yo balopaka bamerita te sakramento ya bolingo paso ya kolinga soto na soto ekeseni awanga na komi sose damo bawapa maka emataka seteteo yeba yango na motema na yo yuyue ozali wangai motema diyuyue mikolo miko mimi kusese bandoto meka osala wanga motema mpe mabasoya no miko mabanda eloko bolingo ndenge yo balobaka bamerita te ntango nyonso se badeceptio sakramento ya bolingo paso ya kolinga zoto na zoto ekeseni awanga na komi suse damo maboko moko emataka zeteteo yeba yango na motema na yo yuyue misebimbika na kolela moteme tomi na mawa pasi na soto tomo yaka sherie yaka songela motema olwaso olwaso ako sakramento ya bolongani na butu sekolotokoyo sekolotokoyo motema mamileli lokola mwana kelasi asite namileli yoo paso ya kolingango ekeseni Quito, quito, quito, pensi na vertige. Quito, quito, quito, bouge na bongo. Sacramento ya bono gani. Na butu, sekolo toko yo, sekolo toko yo. Adiasano. Pasio, pasio, pasio na motema. Pasio, pasio, pasio na motema. Nenge o salinga chérie na pensi o merci. Nenge o salinga chérie na pensi o merci. Sakramento ya bolongani na butu sekolo toko yo sekolo toko yo kwite kwite kwite bouge na bongo na peur de kilibe mwana mama songela motema tumblake motema yakadie sakramento ya bolongani Naputu, sekolo toko yo, sekolo toko yo Mako mileli loko la mwana kelasi azite Na mileli yoro, paso ya kolingango ekeseni Kwite, kwite, kwite pesi na vertige Kwite, kwite, kwite bouge na bongo Mise bimbinga na kolela moteme komi na mawa Pasi, pasi na kaso toko Yaka sherie, yako soke na motema oh, lwaso, Manuaku, Manuaku, Manuaku, Manuaku, Manuaku, Manuaku,